Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, buonasera a tutti, ben ritrovati, siete su Blu Radio Veneto all'interno della programmazione serale nominata Blu Radio Sera. Una buona serata vi arriva da Flavio Bilato e assieme a me c'è Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Come va? Tutto bene Maurizio? Bene, bene. Sì. Fa un po' freschino, si sta meglio dal punto di vista della temperatura. Direi proprio di sì, ma sai che comunque all'interno dei nostri studi sembra sempre di essere i tropici. È vero, è vero. In qualsiasi periodo dell'anno che si viene all'interno dei nostri studi in via Cernaio 84 nella redazione di Padova, bisogna arrivare stile hawaiano, quindi con tanto di fiori al collo, perché poi la cuffia fa il suo dovere da un punto di vista professionale, ma fa anche il suo sudore, si scalda così, giustamente l'ambiente. uno scaldo orecchio inopportuno. Esatto. Allora in questa serata, come abbiamo abituato i nostri ascoltatori, c'è un appuntamento live, è un'intervista sempre a personaggi che si turnano, che vengono a presentare i loro lavori. Questa serata un appuntamento davvero particolare, un personaggio che arriva da Bergamo senza il suo gruppo, però ha deciso di metterli in castigo, di lasciarli a casa, e quindi stiamo parlando di un gruppo che si chiama Beppy and the Prismas, e questa sera diamo il benvenuto solo al Beppy. Buonasera Beppy. Buonasera a voi. Non li ho lasciati a casa io, sono rimasti a casa da soli. Sì. Ma non perché abbiano snobbato l'impegno con Blu Radio Veneto, quanto perché insomma Padova da Bergamo comunque insomma dista sempre quelle due ore e mezza. Sì, certo. E sai com'è, domani mi devo alzare presto . E io stasera veramente volevo andare a fare un giro da quell'altra parte, poi torno tardi e alla fine sono venuto io, perché poi fondamentalmente queste cose qua me le devo smazzare io le promozioni, che è una cosa anche piacevole, per carità. Sì, sì, sì. Però insomma sai, è più bello suonare che non andare in giro a dire alla gente vi prego ascoltatemi, perché poi in buona sostanza promozione vuol dire quello. Sì, certo. Venitemi a sentire, comprate i miei prodotti e queste vabbè, cose. Vabbè, allora per comprare i prodotti di Beppy and the Prismas naturalmente prima bisogna ascoltarli, e questa serata è fatta apposta appunto per ripercorrere tutta la carriera di Beppy con i suoi Prismas, quindi cominciamo dall'ultimo per poi far sentire anche quelli che sono dei dischi usciti qualche tempo fa, perché Beppy and the Prismas non è una novità, magari qui nel Veneto lo può essere, però in quel di Bergamo lo siete sì, da parecchio tempo. È una storia iniziata nel 2004, in realtà io avevo fatto lavori discografici anche prima, però non marchiati come Beppy and the Prismas, erano lavori in italiano. Il primo disco ufficiale di Beppy and the Prismas è del 2004, da allora ad oggi è stata una storia particolarmente soddisfacente, particolarmente sentita nel territorio bergamasco e in quelli limitrofi. Il nostro limite è sempre stato quello di essere molto molto bergamaschi, molto dialettali, sì. E questa cosa, se da un lato faceva simpatia e ci faceva puri, sì, e inviolabili, dall'altra parte ci ha sempre impedito in qualche modo di arrivare come qualcuno dice avremmo meritato. È una questione un po' di scelte, nel senso che se uno non scende a compromessi rimane puro, ma rimane lì nel suo paesello in pratica. Anche se è un discorso vero fino a un certo punto, perché il fatto che io parli questa lingua apparentemente così incomprensibile non dovrebbe pregiudicarmi a priori l'ascolto di chi non comprende questo idioma, perché insomma è una cosa che ha detto anche Guccini 30.000 anni fa. Certo. Ascoltate alla radio un sacco di canzoni in inglese, non capite niente. Dico, potete sentire anche una volta il dialetto modenese con lo stesso effetto, diceva così, Guccini. Sì, è vero. Allo stesso modo, ecco, io non credo che la gente sappia che cosa dice Lady Gaga quando canta, no? Ecco, quindi se anche non capite cosa dice il Beppy, a regola non dovrebbe essere così importante. È altresì vero che io sono molto molto territoriale, quindi quello che dico è importante. Aggiungiamo anche il fatto che non arrivo da una provincia qualsiasi, arrivo da una provincia conosciuta in maniera anche un po' storpiata come una provincia che parla un dialetto tra i più ostici d'Italia. Insomma, quando non si sa cosa dire di un qualcosa che non capisci, dici che cos'è? Bergamasco? Sì. No? Beh, è possibile, insomma. L'ha giocata un po' con il calabrese a questo punto, no? Io non lo so, non conosco il calabrese. Il bergamasco a me non risulta così incomprensibile, però no, è chiaro che certo, adesso... Certo. No, vabbè, comunque qualcosa ci si intende, poi noi, insomma, veneti abbiamo sì. preso qualcosa, poi tutto il mondo è paese, anche i cinesi capiscono qualcosa del bergamasco. Beh, in realtà, insomma, prima di arrivare in Cina io credo di avere qualcosa da dire più al Veneto che alla regione di Shanghai. Ma sai, verso Oriente ci si sposta pian pianino come Marco Polo. No, vabbè, però ci sono delle cose che io racconto e le racconto in dialetto. Ma a prescindere da come le racconto, da quale lingua uso nel raccontarle, è quello che racconto che dovrebbe essere interessante per quanto riguarda quelle zone dove si vive in una maniera simile. Cioè le valli del Veneto in generale, faccio un esempio, non credo che abbiano una vita socio-economica così diversa dalle valli bergamasche, bresciane. Non sono distanti dalle valli d'Aosta. Cioè, un pastore di Bergamo farà una vita super giù simile a un pastore veneto. Certo. Uno che fa i turni in fabbrica ad Almine farà i turni in fabbrica anche ad Asiago. Cioè, una roba del genere, no? Sì, no. E alla fine, ecco, se uno capisce quello che dico, può andare a capirlo leggendosi, ad esempio, le traduzioni, che comunque sul libretto ci sono. Bene. Alla fine, ecco, è lì il fulcro della vicenda, quello che racconto. Ecco, il libretto in questione è quello che compare nel tuo ultimo lavoro, Beppi, che si intitola Cassette. Cassette, che in dialetto vuol dire cassetto. Sì. E che però rappresenta anche il punto numero 7 della tua discografia in studio. C'è un rebus CA7 cassette. In realtà è uscito anche una tiratura limitata di questo cassette, che era un vero e proprio cassetto, era proprio un pezzo di legno così, lavorato, inciso, molto bello, ce ne sono solo 100 esemplari. E vabbè, non arriva da lì il nome no. Deriva da questo giochino di parole che dicevi tu, ma anche dal fatto che il cassetto, insomma, è simbolicamente un po' un luogo dove confluisce di tutto, dalle ultime cose scritte a quelle magari dimenticate lì da anni. Quindi una specie di... Sì, qui nella copertina c'è anche una camicia che riguarda un po' il periodo, forse Beat. No, è una camicia country, anzi, ecco. per l'esattezza vintage country, perché io sono un amante del genere country, soprattutto del new country, quello di oggi, insomma. E faccio arrivare queste camicie da Denver, in quel caso lì arrivano da Denver, e sono delle camicie... chiaramente forse non molto fini secondo il gusto italiano, ecco, questo giallo nero arancione particolarmente sgargiante, però sono molto molto belle e sul palco in qualche modo in questi anni hanno anche un po' caratterizzato a livello scenico la nostra band che si presenta spesso con abiti del genere. Io poi mi cambio in continuazione, spesso ho il cappello da cowboy oppure delle bretelle in stile old frontier. È un marchio di fabbrica anche quello, non molto folk se vogliamo, perché non credo che i bergamaschi si siano mai vestiti così, però siccome trovo delle analogie tra la provincia americana e la nostra, Mi piace mettere questo tipo di abbigliamento. Quindi un gemellaggio tra Denver e Bergamo praticamente. No, tra Denver e Bergamo no, però se pensiamo, qualche affinità. Sì, se pensiamo alla provincia, io parlo proprio di quella remota, dove si va in giro col pick up, con gli stivali impolverati, dove la metropoli la si avverte come molto lontana, credo che in qualche modo ci possa essere un'analogia un po' forzata, per carità, però noi comunque ci sentiamo distanti dalla realtà metropolitana, che nel nostro caso è quella di Milano. Certo. Siamo veramente quanto di più distante esista a livello concettuale, lavorativo. Insomma, la nostra vita è molto diversa da quella di uno che abita in città. Stiamo parlando con Beppi and the Prismas, stiamo presentando anche il suo nuovo lavoro che si intitola Cassette, e spero di pronunciarlo sempre correttamente. Tra l'altro tu hai detto Beppi and the Prismas, sei uno dei pochissimi DJ che l'ha detto giusto. Ah, perfetto. Perché di solito mi chiamano Beepy. Ah, Beepy. Beppi, okay. Che è veramente terribile, ma ormai ho rinunciato a... Ma noi veneti Beppi è una... siamo avvantaggiati per questo. Sì, è vero. Penso che Beppi sia un nomignolo usatissimo sia dalle mie parti che dalle vostre, ma forse più ancora dalle vostre. Sì, dalle nostre sì, molto. Sì, ci sono molti Giuseppe che vengono diminuiti col Beppi, mentre sarebbe moderno chiamarli Beppe, in realtà poi ognuno ci scappa. Ma Beppe sa più di Sud Italia. Beppe, Peppe. Vabbè, allora, riprendendo l'argomento, stiamo parlando appunto con Beppi, rappresentante dei Prismas, che li salutiamo a distanza, loro sono a Bergamo, e presentiamo subito un primo pezzo, tanto per far intendere i nostri ascoltatori di che musica stiamo parlando. Guarda caso, un brano proprio tratto dall'ultimo lavoro che si intitola Viva l'Italia, è in italiano questo? Sì, è una sorta di eccezione che conferma la regola, noi di solito scriviamo e cantiamo in dialetto, però appunto in questo caso era un po' assurdo mettermi a raccontare certe cose in dialetto, perché avevo a cuore che questo messaggio arrivasse anche al resto della nazione. Allora lo ascoltiamo, resto della nazione, rimanete in ascolto. Radio Sera. Blu Radio Sera. Sì, si è un po' interrotto, adesso lo ripristiniamo immediatamente. Parliamo un secondo con Beppi. È colpa del CD o del lettore? Penso che sia colpa del lettore. Del lettore che ha avuto un momento di crisi mistica, come si dice. Posso approfittarne per dire di che cosa parla questo, ecco, esattamente, questo benissimo, brano, perché va in qualche modo un po' introdotto, perché certo. Altrimenti corre il rischio di essere proprio frainteso dalle fondamenta. E Viva l'Italia è un titolo particolarmente ironico, in realtà polemizza con la retorica che ci vorrebbe tutti festanti per questi 150 anni dell'unità. E, in realtà certi territori, e credo che voi lo sappiate perché in qualche modo siete vittime insieme a noi di una certa forma di discriminazione, certi territori non vengono mai nei fatti considerati parte integrante del territorio italiano. E io per territorio italiano intendo le differenze che compongono lo stivale e che vanno tutte rispettate, vanno tutte citate in egual misura. Abbiamo recuperato la Viva l'Italia. Viva l'Italia. Viva l'Italia. Adesso il CD player qui. Cosa faccio? Vado avanti o facciamo sentire la canzone, dai. Va. Ripartiamo come se nulla fosse accaduto. Ok. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ciò che pensa, purché quel che pensa sia scritto qua. Siamo no sotto lo stesso tendone, d'un solo colore, il nostro perché no. Provate a dire la via mia, la via del mare. Ognuno è libero di essere diverso, purché sia tra i diversi che stan scritti qua. Siamo no, uno stivale tutto intero, sotto lo stesso cielo, il nostro perché no. È facile essere giusti, giusti, giusti. sei solo tu. È facile insegnare agli altri quando ci sei solo tu. Viva l'Italia! Nessuno si sbaglia. Viva l'Italia! Nessuno si sbaglia. La maglia azzurra addosso e via, pane, amore, fantasia. Di avere un ideale, purché sia uguale al nostro, perché no? Siamo no una grande sola nazione, con una canzone la nostra, perché no? Provate a dire che la Italia mia, la via del mare. Ognuno è libero di avere un'opinione, purché in dotazione tra quelle scritte qua possiamo usare tutti la stessa lingua, una che si distingua, la nostra, perché no? È facile essere giusti, giusti, giusti, giusti, giusti. Quando ci sei solo tu, solo tu. È facile insegnare agli altri quando ci sei solo tu. Viva l'Italia! Nessuno si sbaglia. Viva l'Italia! Nessuno si sbaglia. La maglia azzurra addosso e via, pane, amore, fantasia. Radio Sera. Blu Radio Sera. E abbiamo sentito un finale un po' hard rock, un po' noise quasi, heavy metal noise con delle punte alla Dream Theater, non, sì, esattamente. Non so che altri commenti esprimere. Viva l'Italia, questo primo pezzo per comprendere la musica di Beppe and the Prismas, anche se sappiamo che la musica appunto di Beppe e i suoi compagni non è solamente di questo genere, perché si spazia un po' in tutti i generi, è presente il folk, il pop, il rock. Sì, io ho un animo particolarmente vicino al rock, però facendo anche dell'ironia, non è il caso di Viva l'Italia, però è il caso di altri pezzi, spesso ci permettiamo di invadere campi a noi estranei proprio per fare la risata. Chiaramente cerchiamo di farlo bene, però... questo non era un pezzo che non c'era, non è dal punto di vista musicale di risata un pezzo ben costruito, è un arrangiamento corposo, un arrangiamento di un certo peso, Beppi. È un pezzo molto particolare, sì, anche perché accostare l'hard rock alle voci liriche è quantomeno ardito. Esatto. Ricordiamo tra l'altro che le due voci che sentite sono quella del baritono Gabriele Nani, che è stato uno dei vincitori a Tour de Chance su Rai 1 con Pippo Baudo, e la voce invece del soprano è quella di Marta Calcaterra, che è una cantante lirica novarese. Bene, che hanno deciso di venire, li hai chiamati, come è entrato questo allora contatto? Il primo, Gabriele Nani, l'ho incontrato a un pranzo e siccome lui già mi conosceva mi ha buttato lì l'amo, mi ha detto dai che facciamo qualcosa insieme, e io, conoscendo anche il livello del personaggio, l'ho preso subito al volo l'occasione. Nel caso di Marta invece ho dovuto faticare un po' di più perché non conoscevo molto l'ambiente della lirica e non lo conosco neanche adesso, ma c'era in più una difficoltà, che questo pezzo ha un sapore, lo stavo dicendo prima, particolarmente polemico, e non tutti probabilmente avrebbero piacere di esporsi cantando una cosa del genere. Cioè il pericolo di essere immediatamente etichettato come leghista è tangibilissimo, diciamolo pure, perché in pratica si rivendica per il nord uguali diritti come per il sud. Dice: non è possibile che il nostro punto d'incontro sia sempre solo l'idea tua, cioè se tu sei bianco e io sono nero il punto d'incontro dovrebbe essere il grigio, invece in Italia il punto d'incontro è sempre il tuo che è il bianco e io che sono nero devo solo stare zitto. Nel momento in cui tu denunci una cosa del genere, in pratica denunci di essere vittima di una forma di razzismo, passi automaticamente dalla parte invece del cattivo e del razzista. Cioè, nel momento in cui tu dici, ma scusate, ci siamo anche noi, la risposta automatica è: voi chi? Quelli del nord? Quelli coi soldi? Volete venire qui anche a romperci le balle a dire che volete parlare con il vostro accento? Faccio un esempio, lo dicevo prima a Maurizio, sì, fuori onda. Negli studi di Saxa Rubra, sì, uno con l'accento come il vostro mica c'entra. No, e neanche uno come il mio. Lo mandano piuttosto alla redazione veneta a Venezia. Beh, bravo, sì, bravo. Ma adesso io non dico che sia bello parlare, sì, con un pesante accento dialettale, certo, però o tutti o nessuno, no? Cioè, se non ce l'abbiamo noi, se noi facciamo i corsi di dizione per levarcelo, lo facciano anche loro il corso di dizione per levarselo. E invece no. Tu dici una cosa del genere, se arrivi da un paese del terzo mondo, allora stai facendo della etnocultura. Se invece arrivi da un paese dove si lavora 14 ore al giorno e l'unico pensiero che si ha è quello del fatturato fine mese, devi solo stare zitto perché sei un cattivone leghista razzista. Io in realtà non ho mai avallato certi pensieri leghisti cattivi razzisti, razzisti, però semplicemente voglio avere gli stessi diritti che hanno tutti gli altri. Quindi prima di venire a menarmela con la storia del tricolore, mi dovete far sentire orgoglioso di essere italiano, e ogni volta che io dico di essere bergamasco devo pagare lo scotto della mia provenienza. Anche il discorso che si faceva prima riguardo Van der Sfros in qualche modo è ricollegabile a questo, perché per carità, Davide è andato a Sanremo perché è bravo e questa è la prima motivazione, però ci sono anche altre motivazioni. Il fatto che lui canti in comasco e non in bergamasco è un vantaggio non indifferente, perché il comasco non viene visto istintivamente, preconcettualmente, come una minaccia per l'unità della nazione, come invece è visto il bergamasco. Tu, se pensi al movimento della Lega con quelli con le corna sulla testa che armati di macete vanno ad ammazzare i meridionali, cosa pensi? Pensi ai bergamaschi, no? Oddio, per carità, in qualche caso possono anche aver ragione, ne ho visti di trogloditi anche dalle mie parti, sì, che non hanno scusanti. Però dall'altra parte non è che tutta una terra deve pagare lo scotto di questi. Qualche homo sapiens aerobico. Io ogni qualvolta dico io canto in bergamasco già mi autoetichetto. Già quello che ho di fronte mi dice: ma dove vuoi andare questo? Vuole fare anche della roba di qualità in bergamasco? Ma non mi faccia ridere. E allo stesso modo Davide è stato secondo me bravo e ha fatto molta fatica a scrollarsi di dosso questo preconcetto forte che c'è nei confronti di tutto il nord, perché hanno fatto delle domande a Sanremo a Davide che erano vergognose, del tipo: è vero che tu sei qui per dividere l'Italia? Ma perché mai? Solo perché canta in dialetto, in un dialetto del nord. E lo hanno fatto a lui che canta in comasco. Immaginate a me che sono bergamasco e che per di più sono anche un po' di quelli un po' cattivelli. Ma io immagino che andrei probabilmente in una qualsiasi conferenza stampa a Sanremo, probabilmente sfocerebbe in rissa, perché il primo giornalista che ogni qualvolta io apro la bocca mi dice lei stia zitto che già è bergamasco, è cattivo, è razzista, è leghista, io probabilmente a un certo punto gli arrivo un pugno in mezzo agli occhi. A meno che non sia un giornalista dell'Ecco di Bergamo. Ma neanche, neanche lì andiamo. Dipende chiaramente, sì, dipende. Sì, certo. Però, anche perché non ho detto a caso l'Ecco di Bergamo, perché hai collaborato anche con l'Ecco. Beh, l'Ecco da noi è un po'... come si può dire, la colonna portante dell'informazione, poi chiaramente qualcuno piace e qualcuno no, però il gruppo Sesab, che poi è il gruppo che comprende l'Eco di Bergamo, Bergamo Alta e l'Eco di Bergamo, Radio Alta e Bergamo TV, è l'informazione con l'articolo determinativo, perché un vero e proprio concorrente, nonostante ci siano diversi tentativi, a livello numerico non ce l'ha. Non esiste. E quindi l'Eco, quando hai l'Eco dalla tua, ammettiamolo, insomma, è un bel andare. Certo, e no, l'Eco io... a me ha fatto molto piacere, comunque, a prescindere da quello che qualcuno può dire, che l'Eco in 3-4 occasioni abbia cercato il Bepi per delle collaborazioni, per me è motivo comunque d'orgoglio. Insomma, l'Eco è una presenza storica importante a Bergamo. Sempre per portare qualche esempio del dialetto del nord portato nella TV, nella radio nazionale, ricordo degli sketch di Cocchi e Renato quando portavano le notizie dalla Valtrompia. Mi sa che vai un po' troppo indietro, io probabilmente ero piccolino, di Cocchi e Renato ricordo qualcosa. Però ecco, anche in TV, semmai ne possiamo parlare meglio quando ascolteremo Remigio, che è un brano proprio su questo argomento. Anche in TV certe realtà del nord non vengono mai fotografate, vengono deturpate, vengono scimmiottate. I comici che fanno i bergamaschi, per esempio, in realtà non fanno i bergamaschi, fanno sempre la macchietta del bergamasco che il resto d'Italia vuole. Quindi il bergamasco con il berrettino di carta che dice "Hurra, hotto, sono partito da casa, ho fatto su il muro". Ecco, noi non siamo così, magari agli occhi degli altri possiamo somigliare a questo tipo di stereotipo, ma non siamo così, e uno dei miei fini è proprio quello di dimostrare al mondo che i bergamaschi non sono proprio, o quantomeno non sono solo quello. Ecco, dietro questa corazza un po' burbera c'è un mondo. E prima di criticare questo mondo bisogna conoscerlo. Certo, perfettamente. Certo. Tu allora approfittiamo di questa serata per conoscere ancora meglio il mondo di Bergamo. Non sei il primo arrivato da Bergamo, abbiamo ospitato anche altre band sempre provenienti dal bergamasco e hanno tenuto molto alta la bandiera appunto di questo popolo così sanguigno, diciamo. Erano rocchettari, Beppi, assolutamente rocchettari. Adesso non ricordo, vabbè, però erano rocchettari, cioè portavano avanti. Ma cantavano in dialetto? No, non cantavano in dialetto. Solo Cialle Cinelli, ma non fa parte, è di Brescia lui. È di Brescia. Anche qua. Se hai collaborato con sì, lui. Sì, sì, sì. Vabbè, ascoltiamo qualcosa dal vivo, visto che abbiamo detto all'inizio della trasmissione che ci sarebbe stato anche del live all'interno della nostra trasmissione. Beppi senza i Christmas. I Christmas con la P di Palermo. sto sentendo il Natale vicino. Beh, vabbè, sì. Merry Christmas and Happy New Year, ce l'hanno detto. È sì, vero, sì. L'avevo letto da qualche parte. Questo, sì, sì. Allora, questo è un brano del 2007. Che parla proprio di quella vita di provincia di cui accennavo prima. La provincia si contraddistingue per tante cose, tra cui il pettegolezzo. Il pettegolezzo è la cosa che più anima il bar la mattina, no? E il pettegolezzo riguarda quasi esclusivamente lo sfondo passionale, cioè, diciamo pure le corna del tale che va con la tale, che va con il tale, eccetera eccetera. È la famosa piazza che spiazza questa. Sì, solo che se voi notate, spesso e volentieri chi sparla, essendo una realtà piccola e bene o male tende a esaurirsi nel giro di poco tempo, è facile che finisca con l'essere vittima dello stesso pettegolezzo, nel senso che tu critichi la figlia di quello là che è rimasto incinta, non si sa di chi, E poi spesso succede che magari anche la tua, oppure, oppure che tuo marito il giorno dopo se ne va con la cameriera, no, le classiche cose così. Ascoltiamola in musica. E questa si chiama All Gir di Coren, dove il primo fedifrago va insieme all'ultima fedigra del giro, insomma, il Gir di Coren. Ecco qua. Mario Leri attacca la fonda via Pelé, sei il biglietto che era scritto a Mere Romia che l'endaccia col becher, e da quelli su l'endaccia sta Pier. Mario Lascle era dude e dopo l'endannac hai disco la Milena che la gade sgac, se il Piero lo sapress, ta dica mia cosa il succederes. Piero in verità l'esamo un po' che il gran sospet, mal fascito perché la trua correggi pet, lì a quel della Margo, la colombiana calia l'incasò. Che in da zona tu c'è che lo, mei denate lì in uvela, che in da zona come a scuola, tu la schia e trio quater volte ma la filta tocca a te. La Margo l'endaccia via e da file endaccia ardes, la spusa che il bionca il gade ismes milanes, ma l'ulga piasaion le giolli mia per caso d'escotem. Col somrus lenino che il suen ecco l'R6, la sua fonda lo dismia però per le de mei, almeno l'empegna e le la pulverisco il disperat. Col disperat lei vai carcali in danza malabeta, che l'unda fa passerismo e l'Eliana brasceta, ma l'è restata perché sta volta le sgumava le. Che in da zona te c'è che la, mei denate lì in uvela, che in da zona come a scuola, to la schia trio quater volte ma la vita tocca a te. La beta la disianno e sta se fino allo tre, basta biker smur di lì un do con due becher, le mestis che biot, ma il faranda la crapa e mi argoddu. Ma Sandro ha da te di oltre l'avres di nisù, l'attaccata anda con d'una più è già delù, e il bel cale d'albù, la fonna Marion se ma alla canzù. Che in da zona te c'è che la, mei denate lì nuvela, che in da zona come a scuola, la schia trio quater volte, schia trio quater volte, schia trio quater volte, ma alla fine alta tocca a te. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato questa capito versione. Capito tutto, no? Sì, certo, abbiamo capito alcune parole, ma naturalmente il traduttore Google in questo se caso. Se vi può consolare, sì. Anche i bergamaschi fanno una fatica boia a capirmi, perché parlo il dialetto delle valli e poi lo parlo molto stretto. E chi è della città o della bassa bergamasca, cioè della pianura, tende a capire poco quello che dico. Sì, perché sono rimaste delle parole che diventano parole antiche, pur sì, essendo tipo, in uso. Tipo scotum, che vuol dire soprannome. Ecco. Che non si usa più adesso. Poi io, una cosa che rende particolarmente incomprensibile quello che dico, uso una forma di genitivo che si usa praticamente solo nelle valli. Per dirti, la donna di Mario, in tutto il resto della provincia è la fonna de Mario, da noi è la fonna Mario, Cioè c'è un apostrofo con il raddoppiamento della consonante che arriva, no? La fonda Mario, Maria Larata, Maria della Rata, non lo so, addirittura in certe zone per dire di chi è questa penna è di Mauro. Di chi è la penna che? Perché la Mauro è quella di Mauro. Tronchi praticamente. Raddoppi, tante cose attaccate, chiaramente uno si perde. E poi musicalmente viene fuori bene, no? Sì. Beh, io scrivo in maniera abbastanza istintiva, a me non sembra di fare una cosa così forzata. Era cantreggiante sto pezzo, posso dirlo? Sì, anche un po' folk. Anche un po' folk, è un finale un po' blues. È bello, a me piaceva per quello. E una cosa, i tuoi concerti sono seguitissimi, parlami un momento dei tuoi concerti. Il concerto è una parentesi veramente diversa rispetto al CD, perché chiaramente noi ci teniamo a suonare bene anche dal vivo, la qualità non deve mai mancare, però c'è un qualcosa che si aggiunge, cioè il tecnicismo magari viene un attimo meno e cresce il continuo interscambio con il pubblico. Facente. Io per esempio non mi sono mai posto il problema se sul palco certe cose si dicano o non si dicano. Tendo a dialogare con il pubblico in una maniera che probabilmente, stando al decalogo del bravo showman, sarebbe anche sbagliata. Cioè, per dire, se a me viene in mente di raccontare quello che mi è successo qualche ora prima mentre venivo al concerto con la macchina, lo racconto. Questa cosa è diventata un marchio di fabbrica che chiaramente, probabilmente qualcuno non piace, ma ai miei fans piace, proprio perché viene smontato l'intelaiatura, diciamo, dello spettacolo dove ci si comporta sempre solo in un determinato modo. Il famoso copione. Esatto, io tendo a essere molto, molto alla mano, molto, molto fuori dagli schemi, chiaramente senza mai scadere nel cattivo gusto o nell'inutile. Però questa cosa contribuisce a fare da collante tra una canzone e l'altra, e la gente alla fine si diverte non solo cantando ma anche nei momenti di intervallo tra una canzone e l'altra, dove io chiacchiero, racconto, parlo col chitarrista, a volte parlo addirittura col pubblico. Quindi praticamente quando uno viene a vedere un concerto dopo l'altro cambi totalmente l'impostazione tra uno e l'altro. E questa è una delle cose che mi dicono spesso e che mi fa molto piacere, cioè si può vedere 20 concerti di Beppi and the Prismas e non trovare grandi analogie tra uno e l'altro, a parte ovviamente le canzoni, parte un marchio generale che sta a monte, che è chiaro, siamo noi. Chiaro. Però ecco, io è facile che quello che dico prima di una canzone in un concerto sia molto diverso da quello che poi dirò prima della stessa canzone ad un altro concerto, perché l'atmosfera è diversa o perché in quel momento mi sta a cuore dire quella cosa piuttosto che quell'altra. E questa è una cosa molto importante secondo me, un continuo trovare, cercare, scovare sempre idee nuove è una cosa fondamentale. Ma in realtà non sono neanche delle idee, io proprio mi baso sull'istinto puro, non è che mi prefiggo adesso racconto questa cosa, magari qualcuno del pubblico, faccio un esempio, mi urla qualcosa e questa cosa mi fa venire in mente un aneddoto successo anni prima, io racconto l'aneddoto, chiaramente sempre in una maniera tale da far divertire, perché a me interessa che ci sia dell'umorismo, che ci sia del divertimento, anche quando, lasciando perdere quando faccio canzoni serie, che comunque non sono la maggior parte, il resto del concerto è basato sì su una forma di umorismo, su una forma quasi di cabaret, che è un cabaret un po' involontario, cioè non con le battute scritte che io dico in maniera pedissequa volta dopo volta, ma è comunque vicino alla forma del cabaret. Perfetto. Bene, stiamo parlando con Beppi di Beppi and the Prismas, la presentazione del suo nuovo album che si intitola Cassette, e adesso andiamo ad ascoltare un'altra traccia e poi torniamo subito qui in diretta a commentarla insieme. Blu Radio Sera. Si trema ardamo e oste, fretole e gomma e da lei. sura caie brute mal palpete i sala tira con bound the kitty feels ascolti ma me si tremarda moi ostu che la sira i fa fatica saluta e c'è sto uggi di rade insieme ma il vangiro ti seme alla fetta giù ascolti ma me ti sei bel giri in Brasil con il citrosil per falso orar ascolti ma me ti sei bel giri in Brasil Brasil, Gamagut. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Atmosfere gilmuriane, diciamo, vero, vero, bella solo finale. Sembrava Pink Floyd and the Prismas in questo caso. Abbiamo sentito proprio tutto un solo clamoroso, appunto, riservato. Sì, in realtà la prima parte della canzone è un rock più anni 80, più la Billy Idol. Certo. Brasil è un brano molto ironico anche qui. Qualcuno mi ha detto, però non pensavo che uno come te andasse a cercare le donne in Brasile. È ironico, chiaramente. È un pezzo che prende in giro quelli che, diciamolo pure, qui da noi sono quel pelo sfigatelli, vanno oltreoceano in vacanza ufficialmente per vedere la foresta amazzonica e le conchiglie, e tornano dopo aver conosciuto le donne del posto, flashati, chiaramente paragonandole alle nostre che sono un po' più sofistiche. Vedi questi teatrini al bar, alcuni come sempre sono sempre a cavallo tra il divertente e lo squallido, cioè a seconda di come lo vedi puoi ridere come puoi piangere. Nel sentire il sessantenne al bancone del bar che ti dice se sono meglio le cubane, le russe o le brasiliane, puoi farti una sonora risata come puoi riflettere sul mondo e piangere nel tuo angolo. E in questo caso ecco, lascio all'ascoltatore anche perché la scelta. È molto più facile del brano precedente in bergamasco questo, perché è cantato anche in italiano. Brasil? Sì. No. Un po' mi sembrava di capire qualche parola in più. Non mi pare, no, anzi. No. Brasil ci sono, c'è un'altra di quelle parole tipiche di una zona soltanto. Dico Ugi. Ugi vuol dire un pochino, ma solamente a Clusone, Rovetta, nella mia zona in pratica. Già 20 km più a sud Ugi non si usa più. Per dire un pochino si dice Ufali. Ah, bene. Perfetto, tutta un'altra cosa, praticamente. Eh sì, sì. E comunque, allora diamo le coordinate per far sì che anche il popolo veneto, chiamiamolo così, possa entrare in possesso di un CD bergamasco. Allora, ufficialmente il CD è distribuito in tutto lo stivale. In realtà sono cose più sulla carta che non in pratica, perché si deve anche fare richiesta. È anche logico che l'ipermercato di Reggio Calabria, nel momento in cui gli arriva il catalogo con scritto è uscito il nuovo CD di Beppi and the Prismas, risponda non me ne può fregare di meno. Però può darsi che invece qualcuno nel Veneto lo abbia richiesto. Nel caso dovete andare dal vostro negoziante e dire: guardate che non è vero che se lo vende lui al mercato rionale ogni sabato e basta, è distribuito anche dalla ETY, che è un'etichetta appunto che distribuisce in tutti gli ipermercati d'Italia. Se si vuole usare una via così un po' più spartana, un po' più verace, si può scrivermi a info@ilbeppi.com e io faccio proprio come i marocchini sulla spiaggia, tratto via mail. Ascolta, ti do questo e questo e ti metto anche l'adesivo e la pezzina pulisci occhiali, e tu mi fai un bonifico di 20 euro. Tra le altre cose, è assolutamente bella la copertina, cioè meriterebbe proprio il disco ancora prima di ascoltarlo, anche solo per la fattura della copertina. Beh sì, cassetta è sicuramente di tutti i miei lavori quello con il packaging più curato, più... Sì, ma perché... proprio perché, se noi ci pensiamo, oggigiorno per combattere la pirateria che devo fronteggiare io come chiunque, perché non è il fatto che io non sia vasco non significa che la gente dalle mie parti non masterizzi CD del Beppi, anzi, cioè, a manetta. E allora uno cosa deve fare? O sta lì a spendere migliaia di soldi inutilmente per fare dei mezzucci tali per cui quando tiri giù il CD che lo tiri dentro nel computer in realtà questo ti va... tutte balle che alla poi fine. C'è sempre qualche crack sì, nuovo, ma sì, ce la fai. Lo chiamano in gergo. Secondo me devi offrire un po' di più. Già una bella copertina con un bel cartonato, con un bel poster all'interno, sono tutte cose che uno masterizzando il CD non avrebbe. Certo. Poi chiaro, il ragazzino di 15 anni che ha perso ormai il culto che una volta era del vinile, oggi è del CD, e di avere qualcosa in più alla mera musica, è chiaro che se ne frega, però tutti gli altri potrebbero aver piacere ad avere in mano un CD fatto bene, non solamente per quanto riguarda le canzoni, ma anche per quanto riguarda tutte queste cose che fanno da corollario. L'altra cosa, il poster, abbiamo parlato di poster, poi c'è anche il libricino che appunto c'ha i testi sia in bergamasco e tradotti in italiano. Nel poster vengono riprese più momenti di vita del gruppo. Dello studio, sì. Sì. Beh, quello non è il massimo della fantasia, nel senso che quasi tutti quando devono pubblicare delle fotografie in un disco pubblicano quelle che sono state fatte in studio, ma è anche il doveroso omaggio a tutti gli ospiti che ci sono stati in questo disco e che sono tanti e di rilievo, tutti i personaggi a loro modo straordinari. Ne cito un paio, giusto così li sto vedendo attraverso il tuo vetro. Ecco, quel signore lì, per esempio, grigio di capelli, si chiama Eugenio Poppi ed è un modenese, uno dei pochi suonatori in Italia di pedal steel, che è lo strumento americano per eccellenza, l'unico vero strumento made in USA. Oppure Walter Biella, che è un liutaio di Bergamo, che pensate, ha recuperato il baguette, che è l'antica cornamusa bergamasca. Non aveva più costruttori il baguette, l'ultimo costruttore è morto negli anni 80. Lui ha preso questo strumento, lo ha passato in una sorta di tac e lo ha ricostruito pezzo per pezzo, e oggi il baguette gode nuovamente di buona salute grazie a questo signore che così gli ha ridato vita, cominciando di nuovo a costruire questa cornamusa che ha un suono molto molto tipico e molto legato alla tradizione folcloristica bergamasca. Nella parte di copertina riservata al libricino si vede anche penzolare dal collo della camicia una motosega. E quello è il nostro logo ufficiale. La motosega dagli esordi è sempre stata il logo di Beppi and the Prismas, perché secondo me simboleggiava perfettamente lo spirito del CD. Cioè, una certa ruvidità di fondo nei suoni, nel modo di parlare, nel modo di cantare, e anche il simbolo della vita lavorativa bergamasca, perché poi il Beppi è riuscito, diciamo, ad avere quel po' di successo che ha avuto perché ha rappresentato proprio il mondo lavorativo del bergamasco medio. Che non va, che non fa lo steward sull'aereo, ma di solito lavora appunto con la motosega piuttosto che con la vanga o con il martello. Ecco. Una motosega che all'inizio del disco di cassette, stiamo parlando, serve anche per interrompere un qualcuno. Quindi, per capire bene questi siparietti, sì, bisognerebbe partire dall'inizio. La motosega è sempre l'intro di ogni CD di Beppi e ogni volta fa qualcosa di diverso. All'inizio tagliava piante, ma poi chiaramente bisogna evolversi e in questo caso abbiamo deciso di far tagliare una straziante chitarra suonata malissimo e arriva questo giardiniere di poche parole e la smezza in due in pratica. Ma vogliamo sentire un attimino come funziona questa motosega, poi naturalmente ritorniamo e ci fai qualcosa dal vivo. Sentiamo intanto la motosega in questi brevi secondi del disco. Ecco, questa non lo si capisce, ma è una chitarra giocattolo, di quelle con le caramelle nel manico, perché il chitarrista la sta anche suonando discretamente bene. Molto bene. Scusa, devo dire. Me la puoi dare un attimo? Vabbè, stavo a dire che non ti piaceva. Invece la fa bene o Luca RM dalle altre fasi a teatro da Sento Talk. Anzi, prima che ti venga voglia di incolare magari insieme a mo o il mestiere, la buttiamo in questo buco, giusto? Eh no, nel bus la mia vede. La mia vento più, come mai? Perché la qui nella terra. Ah. Perché lei vi ha mettere il bergotto. Tipo? Mia, Fago Silvatica, Lirio Dendro Tulipifera o Cornus Florida Cherokee Chief. Comunque abbiamo capito allora la motosega. Il bello è che i due giardinieri che fanno da sempre la parte dei giardinieri nei miei CD, uno è Paolo G della Trefaggi, in questo caso Luca RM della Trefaggi, sono dei veri giardinieri e la Trefaggi esiste davvero, cioè questi qui in pratica fanno la parte di se stessi, non è che stanno facendo finta. Non è un'invenzione, no, assolutamente. Sono tutti e due. Ed era questo l'intro del disco. Adesso andiamo con un altro pezzo dal vivo. Sì. O come si può dire in bergamasco dal vivo? Osteria, dal vivo o a modo al vivo? Dal vivo. Ah, non cambia, non cambia. No, rimane lo stesso. No, dovrebbe, a regola sarebbe dal VIF, ma non si usa nel caso... Perché ricordo che Davide Van der Spross usava il suo live, proprio scritto L-A-I. Ah, vabbè, grazie, però è ancora una parola inglese. Ma lui è il comasco, però bisogna sottolinearlo. Sì, però vabbè, io lo capisco bene, Davide, quando è molto comprensibile. Allora, io direi di fare quel pezzo che abbiamo detto prima, che abbiamo fatto insieme a Charlie Cinelli. Ah, certo, che è venuto qua, ricordiamo Charlie Cinelli un po' di tempo fa, con la sua band, bravissimo, decisamente, e simpaticissimo. Lui, essendo bresciano, racconta, e poi della Val Trompia, ecco, racconta cose molto adattabili alla mia realtà. Solo che forse voi non sapete che tra Bergamo e Brescia c'è un astio, la rivalità, molto forte, fomentato soprattutto dalle ragioni calcistiche, che fin quando resta nell'ambito del campanilismo va bene, ma a volte sfocia in una vera e propria forma di guerra che anche al sottoscritto ha causato parecchi problemi. Io non ho mai avallato questa forma di guerra tra Bergamo e Brescia, anche perché sono due province speculari, quindi è veramente il massimo dell'assurdità mettersi a fare la guerra con il tuo gemello. E questo brano nel CD cassette viene anticipato da un siparietto mio e di Charlie Cinelli, nel quale io autorizzo lui a cantare nel CD di un cantante bergamasco e lui autorizza me a usare la lingua bresciana. Chiaramente c'è molta ironia, perché qualcuno vorrebbe impedirci anche di fare questo genere di collaborazioni. Il pezzo è suo, si chiama Turne dalla Mesente. Molle la baita da lui son citando che tu ci fa finta di niente. Godici di detturnare le bande andove che è veso in cielo. Molle tot l'ambarda e te molle anche te. E quanche vea truati tocci che gaine vardande traers. E te che te ghete ta spender palanche compende la fiolo del re. Me che mi ha dato posto turne dalla miseria o vicino alle montagne a parlarmi di Ale, che per cricche te pare la desen come me. Tamerdile più alta, più verda l'erbo della banda della. Erbo non è di me, ricordi appena che la bella me ca. Me do so denti me, turne dalla miseria, officia le montagne, a parlarmi di Ale. Che te pare la desen come me. Guarda foglia il gulen e poi piandì il gal capello Enta che gicciar varda sonde le ai varda al garda Eider eise varna iom che capa hulfe E ne fonne che leghe vadre Mendaro più via Dali Mole la baita dell'usson città e disbisogna fa qualche gente che stogna lei a fa la valisa ansi o edri proprio niente me che ho mi ha dato posto torna dalla miseria vicino alle montagne a parlare mediale la gomma alle capre torna dalla miseria vicino alle montagne a parlare mediale che per quel che ti pare vede sei come me. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato un'altra canzone di Baby and Christmas. Christmas. Scusami. Ormai ho preso. Basta, ho preso sei lì, sono il 24 dicembre. Invece è il 6 di settembre. E siamo sempre con Baby and Prisma. Tra l'altro, citando il 24 di dicembre, mi dai l'opportunità di ricordare che sia io che Charlie Cinelli e anche un sacco di altra gente delle nostre parti, c'è per esempio Cristina Donà, ci sono i Folkestone, cioè realtà importanti, ci siamo uniti tutti per un CD che servirà ad aiutare un ragazzo del mio paese che a causa di un'infezione ha perso le due braccia e le due gambe. E ci siamo messi tutti insieme per la prima volta, artisti bergamaschi, bresciani, milanesi e cremaschi, e probabilmente io credo proprio il 24 di dicembre presenteremo questo CD, ed è una bella cosa sia da un punto di vista artistico che da un punto di vista così benefico. Certo, una cosa molto interessante. Allora, quando sarà pronto il CD, certo, mi raccomando, certo, mandatecelo in maniera che possiamo farne una giusta pubblicità. Sì, la cosa singolare è che credo non siano mai finiti su uno stesso CD personaggi così, ecco, che magari, così diversi musicali, magari fino a poco prima erano quasi rivali, oggi sono riuscito a farli diventare apparentemente amici, insomma. È una cosa da sottolineare di Beppi, che lui è manager di se stesso praticamente, produci, fai tutto te. Manager, ma anche magazziniere, autista, impiegato, segretario, contabile. Bisogna andare avanti così, cosa dici? È indispensabile. È dura. In questo periodo, tra l'altro, sto veramente sclerando perché non riesco a correre dietro tutte le cose nelle quali mi sono imbarcato. Però, come dice il saggio, meglio che fare i turni in fabbrica. Certo. E dal punto di vista musicale, questo è un disco molto curato, è stato registrato, mi pare di aver letto, in sei diversi studi di registrazione, è vero? Sì, sono pignolerie mie soprattutto, che magari l'ascoltatore nemmeno nota, però... sai, vuoi fare la voce dal tal fonico che sai che è bravo a fare la voce, che sta lì, te la passa, ti toglie bene tutte le S, ti passa nel come si chiama lì, nell'autotune, tutte queste cose qui, te la pulisce, te la cura, te la restituisce. Poi però le batterie, c'è quello là che è bravo, tira fuori i suoni di cassa più fighi del mondo. Tutte cose che magari l'ascoltatore così un po' superficiale non è che nota tanto la differenza tra il suono del rullante del disco prima e il suono del rullante del disco dopo. Però se tu sei uno che ci tiene, alla fine fai queste cose, anche se credo che francamente la produzione di cassette sia stata un po' sopra le righe, un po' troppo a livello proprio economico, cioè sì. È un disco che avete speso parecchio per quello che è destinato a vendere, è costato decisamente tanto, troppo. Però bene. Si sa che la musica da Beppe and the Prismas viene fuori per la passione della musica. Sì, però sai, alla fine quella passione lì comunque la tiri giù dal conto corrente, no? Sì. E quando è finito il conto corrente è finita anche la passione, certo. E diventa una passione in un altro è bravo, diventa una passione alla Via Crucis. Via Crucis. Allora ascoltiamo un altro pezzo da disco che si intitola Che figo quello lì, ed è un è in italiano. In italiano, è inutile dire che è divertente. È uno dei pezzi più idioti del disco e non a caso è quello che dal vivo ha più successo. Certo. Vabbè, allora sentite qua. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Donne dicono che figo quello lì, con la lancetta sempre a mezzodì, chissà che lungo il suo bacio d'amore, le nostre labbra cambiano colore. Le donne dicono che figo quello lì, che gallo pensano chicchirichì, anche se piove sarà sempre bello stare abbracciati tenendogli l'ombrello. Figo, figo, figo, mi dicono così, ma cosa vi farò? Figo, figo, figo, sì, nessuna pupa mi dice di no. Le donne dicono che figo quello lì, col suo telefonino grande così, guarda, guarda come gonfio quel borsello, chissà che agenda, che pennarello. Le donne dicono che figo quello lì, su e giù col carrello LED, con la sua canna in giardino bagna i fiori, con il suo cactus ci punzecchia il cuore. Figo, figo, figo, mi dicono così, ma cosa vi farò? Figo, figo, figo, sì, nessuna pupa mi dice di no. Le donne dicono che figo quello lì, batte le ali il cuore come il colibrì, a noi ci piace sempre solo quello, il colibrì. Il colibrì può, alle gratis c'è il colibrì, a piccare una iale ma alle una usì c'è. Allora no, allora... un altro uccello. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed ecco qua, un pizzico di goliardia ci voleva. Che figo quello lì. Un brano, diciamo, di autostima, si può dire. No, vabbè, non ti dico da dove ho preso spunto quando ho scritto che figo quello lì. Stavo ascoltando Radio Z. È presente Radio Z? Non so, l'ultima della lista. No, non la conosco. No, no, bene. Radio Z è una radio abbastanza importante della pianura padana, che fa quasi esclusivamente musica da sala. Liscio. Sì, sì, sì. E i testi di alcune canzoni del Liscio sono quanto di più divertente esista, perché a volte vogliono volontariamente far ridere, altre volte vorrebbero non far ridere ma fanno ridere lo stesso. E hanno continuamente questi doppi sensi sessuali che a volte sono molto ben nascosti, a volte sono talmente palesi e talmente così grossolani che fanno ridere per un'altra ragione, perché dici: porco cane, un po' di una bella scazzuolata di finezza non ti farebbe male. E vabbè, ho sentito un pezzo così che mi ha... Che ha ispirato. L'altra cosa, questo così riguardava molto anche un po' di anni 50. Sì, beh, poi l'arrangiamento l'ho cambiato, l'ho fatto diventare pian piano. All'inizio doveva essere molto più kitsch, come... Infatti volevo addirittura che ci fossero quelle tastiere con quei suoni improbabili, che sono palesemente dei synth. Però anche lì i Prismas mi hanno detto: ascolta, sta qui poi a impegnarsi per fare una cosa brutta, già che ti stai impegnando, facciamola bella. L'hai buttato in Dixieland. E allora, esatto, pian piano siamo andati più verso il Dixieland, abbiamo arrangiato questi fiati, che sono tutti suonati, non sono tastiere che suonano i fiati. Autenticamente suonati. Un tubo, un trombone, una tromba, suonati da tre professori. Sì, torniamo al discorso di prima, potevo avere quello che suona la tuba e fa un mi bemolle più o meno, come puoi pagare 50 euro di più e avere quello che ti fa il mi bemolle. E per quello c'è la passione del portafoglio, visto che ne hai spesi tanti per questo disco. No, per carità, poi ci sono anche quelli che sono arrivati e mi hanno detto: pagami una birra, io sono a posto. Bene, è già positivo. Sono persone splendide, ma anche quelli che hanno voluto il rimborso spese è sempre stato qualcosa di sì, di dove ci potevo arrivare, ecco. Accettabile. Non mi hanno mai sparato cifroni assurdi. Salutiamo un momento il nostro direttore artistico, salutare Alberto Prisco e anche la Elena Perletti, che è la della Lunati. Grazie a lei stasera Beppi è qua, e la Rossella, chiaramente. E salutiamo Rossella. Salutiamo la Rossella. Vabbè, allora, noi abbiamo ascoltato fino a poco fa qualcosa di Cassette, no? Questo nuovo disco. Però, naturalmente, si ricordava in principio di trasmissione che Beppi and the Prismas sono nati nel 2004, hanno fatto ben 7 dischi, diciamo, in studio. Ai quali poi vanno aggiunti i live, le raccolte, i DVD. Penso che in totale saremo attorno... Qualcuno ha detto 12, Beppi. No, sono di più. Di più sono? Sono di più. Io credo che siano 16 i titoli come Beppi and the Prismas e 20 considerando quelli come Tiziano Incai. Perfetto, insomma, sì, una discografia vastissima. Mi hanno dato un po' di soldi alla SIAE. Adesso abbiamo svelato anche il nome all'anagrafe di Beppi, che si chiama appunto Tiziano Incani. Sì. Per cui, se si vuole ascoltare qualcosa anche come Tiziano Incani, si parte dal 1995. Beh, l'Almanacco delle Bolle di Sapone, che era il mio primo disco, è introvabile, spero che non lo troviate. Tutti gli altri invece sono già un po' più digeribili. Sono più reperibili gli altri. Sì, sono fuori catalogo, però magari in qualche mercatino si trova. È dell'usato, saltano fuori. Un po' come i titoli di Beppi and the Prismas, che non ci sono più, che sono esauriti da tempo, ogni tanto saltano fuori in qualche negozio. Perché il primo non lo vuoi proprio, vuoi disconoscere totalmente? No, ma non è, per le canzoni erano anche carine, ma... io allora ero molto ingenuo, avevo 21 anni ed ero convinto che dall'altra parte ci fosse un improbabile produttore che, ascoltando l'idea, avrebbe poi potuto svilupparla in una maniera consona. Ma non è affatto così, cioè, oggigiorno poi con la crisi della discografia tu devi arrivare con il prodotto strafinito e stralucidato. Non puoi dire: senti, ho scritto questa canzone, te la faccio sentire voce chitarra, poi tu mi dai i soldi per farla meglio. Ma quando il CD lo devi fare tu. E quello lì era un lavoro fatto molto amatorialmente, dove io facevo sentire a questi addetti ai lavori quello che sapevo fare, ma chiaramente non... era pura illusione. Benissimo, sì, è chiarissimo quello che hai detto. Chiarissimo. Ecco. Avremo un sacco di pezzi da far ascoltare ancora, tratti dagli album precedenti, ce li eravamo preparati prima in scaletta, però insomma per ogni qualsiasi curiosità c'è anche qualche filmatino su YouTube, no? Che ti ritrae come protagonista. C'è di tutto. Dove si possono sentire, ascoltare e anche vedere pezzi di qualche serata che fai in giro. Sì, sì. Una cosa che ci tenevo a dire è il brano Gleno che avevamo messo in scaletta, poi vabbè, non probabilmente non riusciamo a sentirlo. Se vuoi è pronto. Se vuoi è pronto nella parte finale, eventualmente ascoltiamo... È un brano al quale io tengo particolarmente perché narra del disastro del Gleno che avvenne il primo dicembre del 23 quando crollò una diga costruita malissimo e spazzò via un'intera vallata causando circa 500 vittime. Io che ho molto a cuore la storia del mio territorio non potevo dimenticarmi di questo episodio, del quale purtroppo molti bergamaschi non conservano ricordo. È il brano più serio ma anche più orchestrato di tutta la mia produzione e mi è valso i complimenti di Beppi De Marzi, che per me è veramente un nome di quelli che fanno accapponare la pelle, perché ci sono delle cose di Beppi De Marzi che sono dei veri capolavori. E quando lui mi ha scritto dicendomi sono contento che al mondo esistano artisti che scrivono ancora queste cose, credo sia uno dei più grandi complimenti che io ho ricevuto nella mia carriera. Allora, eventualmente ci ascoltiamo, sono tre pezzi legati insieme. Beh, andrebbe sentito interamente, era solo per citarlo, possiamo anche poi così bypassarlo, però così ci tenevo a dire che esiste questa canzone perché è quella di cui io vado più fiero. Bene, vogliamo ascoltarne comunque un pezzettino? Come vuoi. Benissimo, okay, tanto per capire un po' come è formato questo disco che si intitola appunto Gleno ed è del 2009, quindi a poco tempo. È il penultimo, sì. E anche questo disco, tra altre cose, è formato da una copertina assolutamente... È la diga del Gleno, sì, esatto. Lavorata molto bene, tra altre cose, quindi dà anche riferimenti a quella che è la... È la diga che mostra lo squarcio, quel pezzo di muro crollato che non è mai stato per fortuna ricostruito. Allora ce ne ascoltiamo un pezzettino, poi torniamo. Ok. Blu Radio Sera. Signor, a chi mi chiamo un po' signor, mi chiamo Molifon, mi ha messo primo signor, ma pai nuni compan de me e dormo mia la notte in cruso tre al de e pontero che giù la neve sto mei che signor sei non di una certa età e pur come la urdede ed imparà ma sono restato con l'espressione propria di nuc quando mi ha detto che l'aigua del vu l'ampiao i busiti dol vigano Viganò lo conosci, tende un pare, vuol dire che la porta alla luce a 20 minuti. Ma da che me invece parlo mio tabè, che mi segna il consiglio, ho l'attaccato a sé. Ho il sanagota e il parlo, e il vel fai l'ora, ma non, ho il medisio primo d'entà, primo della gandrella ora. Entati ogni passo, o il vascio il fascio e pala digo, a cambia mio ceipo e martir, e la so, fa digo. L'alde scalfo la sudo, dalla via malo al viviu, a trafo di muts muntu de fere vagu. L'aito del me pare, la me di me fradei, l'estado sbugia prede, e sputa carei. Signori me penser gare sei desperchi ades, se mio pertucci me che gogio ai furni altes. O il pred la dit che me mia preoccupas, ma ol me che ormai ol cognose, e ol me la gara mia in pas. Parir me che il tiute, vuol che lo domanda nigu, chi ha più di gente assensimo colero a su, ol più felve il mio trigalo, e l'ac sulla piece, ol seguito cresce, dol mur che se al glenive fo di fium, isposto li corne, i piso il pitum. Morsenti ol petasalti ol disle mio normal e più di va dricendo il bovo i fandala centrale. Radio Sera. Blu Radio Sera. sarebbero volute 4 o 5 ore per ascoltare tutto il repertorio del Beppe, o perlomeno le fasi importanti. Io chiacchiero tanto, poi sì, mi dilungo. E comunque questo serve per presentare meglio il personaggio e cosa si fa in musica poi, quindi non solamente di musica, ma anche di quello che è il tuo modo di colloquiare col pubblico, che hai dimostrato anche in questa serata con noi, seppur sì, radiofonicamente. Ho parlato in italiano, di solito quando mi intervistano parlo quasi sempre in dialetto, ecco, perché mi intervistano delle radio della mia zona, sì, però può servire una cosa del genere a dimostrare che se voglio riesco a parlare in italiano, perché dalle mie parti c'è anche chi crede che il Beppe non sia in grado di parlare in italiano. No, ci riesco, se voglio ci riesco. Dobbiamo sottolineare che il Beppe per 10 anni è stato DJ anche lui, nostro collega praticamente. Sì. Quindi è un'esperienza importante anche quella, Beppe. Sì, bellissimo. Mi piace tantissimo parlare davanti a un microfono. Magari poi si vede anche dalle nostre parti tramite il digitale questa grande potenza. Ricordiamo dove sei in televisione anche? Ah beh sì, a ottobre partirà un quiz che verterà su Bergamo, su Bergamo TV, adesso non chiedetemi che numero sia del digitale terrestre o di Sky, comunque c'è, e si chiamerà Beppe Quiz, e io sarò il conduttore e l'autore di questo format. Bene, vuoi ricordare alcune date, Beppe? Sì, allora la prossima è il 17 di settembre, siamo a Bresso, provincia di Milano, vicino a Cinisello Balsamo. Il 24 saremo in piazza Osio Sotto, nella bassa bergamasca, e il 25 c'è il settimo Beppe Raduno, che è un po' il concerto principale della stagione, dove insomma si fanno tante cose divertenti dalla mattina fino alla sera, e quest'anno lo facciamo a Clusone, quindi a 3 km dal mio paese. Bene, quindi non ti fermi neanche una notte in albergo, perché naturalmente vado a casa. Parte da casa mia il Beppe Raduno. Il Beppe Raduno alle 2 di pomeriggio c'ha la caccia al tesoro, e si parte tutti da casa mia. Io sono sul balcone che distribuisco le buste con gli indizi alle squadre che sono lì sotto vestite con le loro magliettine colorate. E poi il premio potrebbe essere un CD cassette, allora. No, il premio è una cena con noi. Ce lo facciamo da soli il premio, no? In pratica, certo. La squadra che vince viene a cena con noi e noi andiamo a sbaffare e a imbriacarci fino all'alba. Fantastico. Quindi allunghiamo, facciamo una gita da quelle parti. Dai. Clusone è anche località di villeggiatura, quindi non è che venite a vedere un brutto posto. No, assolutamente. Bene, allora abbiamo avuto con noi il Beppe, da Beppe and the Prismas, questa band di Bergamo che impariamo a conoscere anche noi dal nostro Veneto, e anzi cogliamo l'occasione per invitarli anche. Sì, tra l'altro ho una fan di Padova che si chiama Beatrice, credo fosse l'unica fino ad oggi. Che magari è origine bergamasca, allora. Non mi ricordo come ha saputo di noi, insomma. Vedi. Sì, fa piacere. Benissimo, allora grazie per essere stato con noi, salutici i Prismas quando li ritroverai, naturalmente che si sentano in obbligo la prossima volta di venire. Sì, infatti, ecco. Anche perché adesso devo farmi io il viaggio di ritorno da solo. Certo, ecco, e cantando a squarciagola qualche canzone del tuo nuovo CD che si intitola Cassette. Ma nel venire in qua stavo ascoltando gli Slayer. È un'altra cosa. Qualcosa leggermente diverso. Esatto. Bene. Volete che suoni ancora qualcosa? Certo, noi ci congediamo, ti lasciamo il microfono aperto e poi basta. Chiudo con un brano che parla della nostra e della vostra categoria, cioè quella dei DJ e in generale degli anchorman. Il discorso che facevamo prima riguardo al razzismo che determinati accenti subiscono nei confronti di altri, questo è uno che ha questo accento, si impegna per levarselo, ma in televisione si accorge che tutti gli altri non hanno fatto altrettanto, e allora in un gesto di stizza recupera al volo tutto quello che aveva perso negli anni e reagisce mettendosi a parlare in un dialetto stretto di fronte a queste televisioni allibite di fronte a cotanta tracotanza. Benissimo, allora da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara, solito grande caroloso, buona serata, vi lasciamo ancora con l'ultimo pezzo di Beppe, ancora grazie a Beppe, grazie a Beppe and the Prisma. Grazie a voi, questo è Remigio. Remigio l'andaffoleca ormai taci anfa, Remigio l'anda c'ha studiata i fra. Remigio adesso al turna che è il pro a circa l'ora. Alga pias la città, Milan. Da chi della tele, da chi di programmi d'attualità, chi gadis va bene, accento non ne ha. Che di topo, di foto, di moto, non ne vogliamo, no. La legge della TV le c'era tema Bergeno. Dal volta al bas, si guarda dal volta al bas, mi resta il Bergamas. Dal volta al bas, si guarda dal volta al bas, mastrina del gas. Remigio le marut per inda in onda la TV, adesso Aldis, Francesco e Villa Dugna come lui, ormai le usata sentis di Webergamo, rassista almeno i glodis per chi le della tele, i tipi evoluti della città, chi garis va bene, dice che c'è voi fa. Perché di pota, di cura, di quota, non ne vogliamo, no. La legge della TV le c'era tema Bergen, no. Dal volta al bas, si guarda dal volta al bas, mi resta il Bergamas. Dal volta al bas, si guarda dal volta al bas, mastrina del gas. Remigio adesso lei non dà il gal serve la massa, all'ospite col scitto il galisme in me caricasse, e a pensare che bella me meno una colpe d'an, de chi gabbane che de vintan, chi le della tele, i cora la svelta smorsa sotto, e lui dis va bene, o di cos'è da bru. Tu ci parlate, tu ci contrade, di tutta l'Italia, e vabbè però. La legge della TV le c'era tema Bergeno. Dal volta al bas, si guarda dal volta al bas, mi resta il Bergamas. Dal volta al bas, si guarda dal volta al bas, mastrina del gas. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera.